da tifoso milanista oramai lo stomaco me lo sono fottuto da un casino di tempo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Un pacato tifoso milanista che si esprime con sobrietà circa i suoi sentimenti. Buongiorno Pierluigi Pardo, come sta? Come va? Benissimo, benissimo, benissimo. Che ora hai chiuso la bottega di alle due, come sempre, molto bene. Vabbè, ascolti, troppo... benissimo, De Laurentiis in esclusiva, Paolo sentiamo, Rossi, Pupo, Muntari, siamo al top. Tra un po' lo sentiamo De Laurentiis intervenuto due tre bombette, ma anche di più, perché ce ne ha avute anche per Benitez. Poi parliamo di Spagna, di Benitez che ha già criticato dall'intera stampa spagnola. Ma questi sono discorsi che faremo dopo, perché adesso c'è il Milan attapiratissimo. Abbastanza. Mihajlovic è sceso ieri per un attimo dal banco degli imputati giusto per ritirare il prezioso riconoscimento. Eccolo qui. Cosa succede, signor Sinisa? Mi sta facendo quasi... No, mi sta facendo proprio peggio di Inzaghi. Come mai? Non quasi, si stanno facendo peggio, sì. Come mai? Si vede che... Ma di chi è la colpa? Che è così. È colpa di tutti. Mia per primo. Lei rischia di non mangiare panettone, signor Mihajlovic. Non arrivo a manica lunga, dici? No, secondo me non arriva proprio a manica lunga. Vabbè, vediamo, dai. Ma la squadra la segue? Fa parte del nostro lavoro, sì, mi segue. Sta rimpiangendo i tempi di Ferrero della Sampdoria? No, non sto rimpiangendo nulla. Sto rimpiangendo la situazione in quale ci troviamo. È questo. Bottoni che non funzionano. Questo è Mihajlovic. Mihajlovic al ritiro del tapiro. Incassa il tapiro. Beh, con sufficiente classe. Sì. Mi sembra un po' depresso, posso dire. Beh, per usare le parole del professor Mihajlovic, mi sembra vagamente depresso. Mihajlovic bello. Ma guarda, bello tosto, quelli depressi, anche se fanno finta di non esserlo, lo vedi che sono depressi. Sì. Abbastanza. Che dicono, poteva andare peggio. Invece, dal basso all'alto del campionato. Il Napoli e Sarri e Aurelio De Laurentiis ieri sera, tuo ospite, che con Mihajlovic aveva parlato a lungo, come ben sai, ma poi non è andato in porto perché Sinisa invece non è italiano, assolutamente. Mi piaceva questo suo piglio forte, però lui si è anche un pochettino manifestato quando la seconda volta che ci siamo incontrati mi disse: Presidente, ma lei è scomparso per due settimane. Allora a me sentirmi affrontare educatamente, sì, ma con questo tono, come se uno dovesse essere a disposizione degli altri 24 ore su 24, io che tra Los Angeles, l'Italia, il cinema, il calcio, i parchi a tema, eccetera, insomma, non è che uno non c'ha nulla da fare. Ho visto che dico, forse io ho bisogno di un umile professore. Ecco. Un umile professore. Mentre quel passaggio lì è stato carino. Quel passaggio lì è stato molto carino, sì. Perché innanzitutto non mi sembrava, cioè non mi pare che non avesse mai parlato prima. E poi perché in qualche modo ha raccontato in una maniera che, anche se vuoi, un po' psicanalitica, che ci parla del personaggio De Laurentiis, perché non è scattata la scintilla con Sinisa Mihajlovic. Poi è ovvio che Mihajlovic ti dice il contrario, che in realtà Mihajlovic non ha bisogno della badante, se c'è qualcosa di cui non ha bisogno, di un presidente che lo segue. Però De Laurentiis dice: io lavoro adesso, che Mihajlovic sia venuto a dirmi sono due settimane, sei sparito, non gli è piaciuto. Ma quello che conta è soltanto la sostanza, ed è chiaramente prestissimo, e magari fra qualche settimana il quadro si ribalterà. Non credo, perché questo Napoli mi sembra tanta roba, però comunque è chiaro che dopo sette giornate ci sono ancora ampi margini per recuperare da una parte e invece per avere problemi dall'altra. Detto questo, francamente mi sembra che la scelta di Sarri stia cominciando a pagare. Mi piace molto, ieri c'era una scheda di Terruzzi all'inizio, sì, proprio, che parlava anche del discorso della differenza tra forma e sostanza. Cioè, da un lato si è scelto un allenatore carismatico, abituato a vincere da calciatore, abituato a comportarsi in un certo modo, in giacca e cravatta, grande personaggio Mihajlovic, non è che adesso sia diventato un cretino, un grande personaggio del mondo del calcio. Dall'altro si è scelto un provinciale, un uomo che va in tuta, che fuma due stecche, non so, 20 sigarette, 40 sigarette al giorno, che non aveva mai provato queste sfide. Però, però poi, che è comunicativo, è molto comunicativo, bravo, molto comunicativo, molto diretto. Lo aspettiamo a braccia aperte, ma al di là di questo, mi sembra in questo momento un po' la vittoria della sostanza sulla forma. Sì, poi anche di una squadra che tempo però anche di una squadra che è meglio di altra, sì, però è una squadra che pochi mesi fa con Benitez, e forse sentiremo anche la stoccatina, Benitez faticava, e quindi insomma dai, Sarri, diamo a Sarri in questo momento quel che è di Sarri. Intanto quel che è di Sarri potrebbe essere presto, e questo l'ha rivelato ieri sera De Laurentiis, un nuovo contratto che praticamente è in mano, questo non lo sapevamo, no? Sì. È in mano a De Laurentiis attraverso i diritti di opzione per 5 anni. Sentiamo. Io ho fatto un contratto a Sarri esattamente come faccio d'abitudine anche nel cinema. Un anno più 5 opzioni per 5 anni. Quindi ogni anno, entro il mese di aprile, io ho il diritto di esercitare l'opzione per praticamente riconfermare il tecnico. Ma questo non per dare un vantaggio a me, per dare un vantaggio anche a lui, perché se lui dovesse venire un domani da me e dire: caro presidente, la mia avventura qui a Napoli è finita, non credo di darle più nulla di interessante di quello che io già le ho dato, io dovrei sedermi con lui e cercare di capire e di lasciarlo andare se effettivamente questo è il suo desiderio. Quindi questo De Laurentiis su Sarri, Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, Giovanni Melchiorra, redazione, Pierluigi Pardo qui con me, 80024, 0024 il numero verde traffico. Analizzo tutto quello che si è fatto e prima di prendere, fare certe scelte mi faccio le seghe mentali. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... convocati. Ultimamente non sto dando questo contributo alla squadra, quindi domani sarà o meglio o no? Non so, domani non giocherà perché c'è avuto 3 giorni febbre. Ah, ok, d'accordo. Grazie. No, ma magari gioca. Domani fa capitano. Domani farà gol sicuro se dovesse giocare. Tu samurai, da 3 giorni che c'ha febbre. Il cazzo di samurai è quello. Ultimamente non sta andando. Non sta andando a diciamo, contributo alla squadra. Chi? Samurai? Se c'ha febbre. Io non ho mai visto un giapponese con la febbre. Oh. È strano, si vede che si è come si dice? È diventato si è affosciato. Cosa chiede a San Gennaro? Al solo giapponese. Ti è piaciuta questa su Honda? Che ha detto il samurai, ha detto allora questo Milan qui, non esattamente il più brillante protagonista, no, di questo, direi di no, di questo oscuro Milan, ha detto: qui o si spende, si comincia a spendere come l'United, il Paris Saint Germain, Real Madrid, il Barcellona, o si resetta tutto. Questo ha detto il samurai. Vabbè, però posso dire è come quello che improvvisamente, no? È come quel film di Verdone, credo sia Bianco, Rosso e Verdone, con l'emigrante italiano che va a vivere in Germania, sì, che non parla mai tutto il tempo, gli fregano tutto, gli fregano i sedili al fast food, sì. Alla fine sta sempre zitto, incassa tutto tranquillamente, a un certo punto urla come un pazzo, ecco. E il povero Onda, povero insomma, ha ragione insomma sul fatto che il Milan, ma ha ragione fino a un certo punto, ma in realtà, perché in effetti quest'anno il Milan non ha speso chiaramente come il Paris Saint Germain. Nel City nessuna squadra italiana può spendere, ecco. Però ha speso, ecco. Zio Bergomi. Oh. Buongiorno Beppe, grazie. Ciao Carlo, ciao Pier, buongiorno. Ciao. Come va? Ciao. Come va? Bene, bene. Ci stiamo divertendo un po', dai. Bello, Beppe, sì. Ci stiamo divertendo un po' sulle disgrazie sportive del Milan e di Sinisa. Sai la cosa che più mi sorprende? Come non se l'ho già detto ieri, non sia riuscito a trasmettere alla squadra, ai giocatori, almeno un po' della sua garra. Non hanno il fuoco agli occhi, non li vedi smorti, smunti e depressi. Questo stiamo perché, dicendo. Perché non hanno personalità. Carlo. Bravo, bravo, ecco la parola magica, personalità. Dimmi un giocatore purtroppo del Milan che ne abbia. È così, non c'è. Cioè, chi ce l'ha, secondo me, in questa squadra? Uno è in linea difensiva, ma ormai è scomparso, che è Mexes. Nelle sue difficoltà, però, almeno regge l'urto di San Siro. E altri non ce l'hanno, ecco. Chi sta facendo bene però fa fatica, nel senso, perché è da solo, è Giacomo Bonaventura, sì. Sta facendo bene in tutti i ruoli dove lo metti, gli altri stanno faticando troppo e quando la partita si complica si nascondono. Proprio si è visto domenica, quando sono andati sotto, soprattutto dopo il 2-0, si sono nascosti tutti e la squadra è svanita, è evaporata e non c'è stato più il Milan, quindi manca veramente gente di personalità in questa squadra. Ma ieri Muntari da noi ha detto questa cosa, secondo me abbastanza interessante. Lui che ha giocato nel Milan, ma ha giocato anche nell'Inter, a parte che ha fatto la classifica, ha detto che dei quattro, Allegri e Mihajlovic sono i due che gli piacciono di più, bocciando di fatto Seedorf e Inzaghi, ma che la personalità nell'Inter del triplete la dava soprattutto Mourinho. Ecco, allora, certo. quello che dice lo zio è evidente. L'allenatore quanto può riuscire a surrogare, quanto può riuscire a compensare questa mancanza di personalità della squadra? Cioè, sta fallendo anche lui da questo punto di vista, oppure con questi c'è poco da fare dal punto di vista della personalità? No, può fare di più, lo sa anche lui, penso, può fare di più, gli deve dare un gioco a questa squadra, perché se una squadra ha un gioco esalta anche i giocatori, anche se ritengo che questo Milan, già rispetto anche a quello dell'anno scorso, è un passo indietro. Quello dell'anno scorso almeno aveva un'identità, sapeva che doveva fare difesa e contropiede. Questo tu non sai cosa vuol fare, vuole imporre la partita ma non ha la personalità, la fase difensiva non la fa bene e quindi non ha un equilibrio questa squadra. Per questo io dico che quest'anno gli allenatori devono incidere maggiormente a livello tecnico e tattico, e quindi io mi aspetto da Sinisa. Io penso che questo 4-3-1-2 non vada bene per il Milan, sì. Una delle due punte è di troppo. In questo momento io punterei su Bacca, perché abbiamo intravisto che ha delle potenzialità offensive. Luis Adriano mi ha fatto vedere troppo poco, quindi farei una squadra più equilibrata e più a protezione anche della linea difensiva, che in questo momento soffre troppo. Se vogliamo rischiare, uno con personalità può essere Balotelli. Non sempre una personalità regolare, non sempre una personalità positiva, però almeno è uno che quella garra ce l'ha di suo. Sì. Sì, però dopo si accentra troppo su di lui, Carlo. E secondo me in questo momento non va bene. Deve essere un ragazzo che deve entrare. Sta facendo bene sotto l'aspetto del comportamento, non devo dire nulla. Però non lo devo mettere al centro del mio progetto, ma deve essere uno che mi entra dopo, insomma, e che mi aiuta a far bene e a far meglio, ma non devo partire su di lui, che è quello che è sempre mancato a Balotelli fino a questo momento. A Balotelli qualche colpo, qualche prodezza è riuscita, però la vera fatica di Balotelli è stata quella di essere una pedina importante, perché è un giocatore importante, in un ingranaggio che funziona. Ecco, questa cosa qui è mancata un po' anche per colpa nostra, perché inevitabilmente, io ieri sera erano 2 di notte, si è acceso l'argomento su Balotelli in nazionale, sono risorti gli ospiti, ogni opinionista risorge su Balotelli, ognuno ha un argomento, e quindi poi è inevitabile che i mezzi di comunicazione ne parlino tanto. Napoli e Fiorentina stanno volando altissime, Beppe. L'Inter grossa e potente adesso, a Genova soprattutto, lascia stare con la Fiorentina, mi è sembrata appesantita, lenta, smascherata se vuoi da squadre che tengono la palla per terra, che sono più veloci, più rapide. Non hai avuto questa impressione? All'Inter quasi tutte le squadre concedono il possesso palla, difatti la squadra di Mancini è quella che ha più possesso di palla nel nostro campionato, però è una squadra che fa girare la palla troppo lentamente. Io penso che alla fine il Mancio arriverà a una soluzione diversa, arrivare a un 4-2-3-1, che è la soluzione migliore per questa squadra, e l'ha visto quando Perisic gioca nel suo ruolo, quando, insomma, sicuramente Jovetic è importante perché sarà per dargli velocità. È una squadra fisica, può vincere determinate partite, ma deve migliorare sotto l'aspetto del gioco. però in questo momento chi mi entusiasma, io che vado in giro a vedere un sacco di partite, a commentare, mi piace vedere partite, insomma, le squadre che giocano bene, il Napoli. Napoli sì. Ha un gioco dove esalta tutti i singoli, quindi Sarri per me, insomma, è il massimo in questo momento da commentatore, da amante del calcio, sì, sì. Devo dire Napoli, assolutamente. Ma oggi ho letto che hai votato nel sondaggio del Corriere dello Sport? Ho votato Roma. Ah. Ho votato Roma perché la Roma, secondo me, se Garcia non si intrappola in alcune cose mentali e trova l'assetto giusto della squadra, in base anche a chi ha a disposizione, in questo momento non c'è Dzeko e gioca un certo tipo di calcio, quando rientrerà può giocare altro calcio, ma è una squadra che se a gennaio trova anche un difensore, perché io sono per Florenzi e De Rossi, che non devono fare i difensori, sono ottimi giocatori ma da un'altra parte, d'accordissimo, e se trova un difensore centrale all'altezza la Roma può vincere lo scudetto, perché arriva da due secondi posti ed è, insomma, giusto tra virgolette, insomma, che ha l'esperienza giusta per poter andare a prendere il primo posto. Ma il Napoli non è un'altra cosa? Napoli gioca. Allora, se devo dire di getto adesso così, chi mi fa innamorare del calcio è Napoli, come certo. Gioca, con intensità di gioco, la qualità, come Higuain finalmente dà disponibilità ai propri compagni, non allarga più le braccia, non manda quel peso ai compagni, lavora per la squadra. Questo è il Napoli, quello che voglio vedere io. Insomma, i napoletani, io ho tanti amici napoletani, sono entusiasti, insomma, sono tornati allo stadio e vogliono bene a questa squadra. Però se devo ragionare razionalmente, la Roma potrebbe vincere questo scudetto. Se la smette di essere così intermittente come una lucina di Natale, esatto. Soprattutto esatto. Dal punto di vista mentale, che mi sembra ancora fragile. Assolutamente no, la cosa che dice su Higuain non è un dettaglio. No, perché Higuain, sappiamo, enormi qualità. Non si è mai preso con Benitez, Pier, lo sai meglio di me. No, ma secondo me, al di là di Benitez... Non ha mai speso mezza parola per Benitez, lo dicevamo ieri, in difesa di Benitez, in appoggio a Benitez. Molto spesso veniamo fuori queste voci, voglio andare via. Il suo atteggiamento, il suo linguaggio del corpo è sempre stato quello di uno che, non ti dico giocava per farti un piacere, ma non aveva tantissima voglia di essere. È uno che si, secondo me, che si sente anche giustamente da un certo punto di vista più forte degli altri e più forte del Napoli delle ultime due stagioni, e quindi probabilmente si sarà un po', si può dire, scoglionato, si può dire, radio? Sì. Si sente un po' scoglionato, premesso che non è un atteggiamento professionale, perché tu devi fare sempre il massimo a prescindere, e anzi trascinare. Ma io da questo punto di vista, Higuain, che mi piace da impazzire, no, ho la sensazione che non sia un leader. Da questo punto di vista, secondo me Cavani era un'altra cosa. Tecnicamente è più forte Higuain, secondo me. Come... Tecnicamente sì, Pier. Poi quando noi siamo bravi a dire il più forte del mondo, uno dei tre attaccanti, io ricordo sempre che l'anno scorso, vuoi o non vuoi, ha sbagliato 4-5 rigori, ha sbagliato rigore anche in Argentina, e questo ti dà anche un po' lo spessore del giocatore. Però nel nostro campionato è il centravanti più forte. Sì, assolutamente, quindi, d'accordo. Quindi se lui dà questa disponibilità al lavoro, e io l'ho fatta la domanda a Sarri, lui mi ha detto non ho mai trovato nessuno così disponibile, allora il Napoli può pensare e sognare a grandi traguardi, assolutamente. E quello che vedo adesso, c'è entusiasmo e disponibilità al lavoro e seguire l'allenatore. Lo stanno facendo tutti, e questa sì. Questa è una medicina giusta per questo Napoli. Sì, poi c'è Insigne che in questo momento è, continua a ripetere, il più forte giocatore italiano in questo particolare momento. Quindi Higuain, Insigne, dici poco. Grazie Beppe. Ciao. Grazie davvero. Grazie a voi, ciao, è un piacere zio. Sempre, zio. Ci vediamo presto. Vieni a vedere il basket? Stasera sono lì. Allora ci vediamo. Ciao. Ciao Beppe. Scusa, utilizzo la radio. Mi aspettavo per prendere appuntamenti. Per prendere appuntamenti. È normale farlo. Scusa, chiamo un attimo. Aspettavo. Devo chiamare la lavanderia, se le camicie sono. Signora della lavanderia, pronte le camicie di Pardo. 800 24 00 24, la prego, ci faccia sapere. Diga. Borsa. Ci può stare. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati con Pierluigi Pardo oggi in studio, un sacco di ascoltatori che vogliono la linea. 800 24 00 24, provvediamo subito. Federico, provincia di Siena. Sì, ciao a tutti, ciao. Buona giornata. Come va? Ma come va? Da milanista non va proprio. Di che contrada sei? Chiocciola. Allora, adesso io ti chiedo, quindi sei nemico della tartuca, se non sbaglio, no? Sì, esattamente. Ecco, va, un nemico ovviamente sportivo. Ecco, meglio la vittoria del Palio o il Milan che vince la Champions? Ma guarda, io ormai sono un fotografo professionista, quindi ormai il Palio lo vivo super partes, un po' come gli arbitri. Vabbè, adesso. Io sono per la Champions. Tu sei per la Champions. Sempre, però se facessi il fotografo alla Champions, a quel punto diventi una chiocciola pure là. Chiocciola che vince il Palio. Ecco. Ovviamente. No, io ti volevo chiedere, Pierluigi, perché in questi giorni mi sono messo a guardare un po' di statistiche un po' più dettagliate e ho notato una cifra un po' spaventosa. Perché? Perché ho notato che la cosa grave di questo Milan sono i singoli errori individuali che continuano ovunque. Cioè, Zapata ha una percentuale di passaggi non riusciti dell'85%. Rodrigo Eli, non ne parliamo. Cioè, il Milan, secondo me, non è Mihajlovic che uno può dire la colpa è dell'allenatore. La colpa è di una situazione individuale che porta il peso della squadra a giocare su tre giocatori. Cioè, Romagnoli, che per fare gli straordinari prende un rosso una partita sì, un rosso una partita no. Buonaventura, che di fatto sta facendo il Menez dell'anno scorso, prende palla e va da solo, con piedi meno buoni ma con un cervello forse che funziona un po' meglio. E poi siamo lì, cioè se si spenge Montolivo come si è spento l'altra domenica è finita, perché a Luis Adriano o a Bacca un pallone giocabile non gli arriverà mai. Mai. Quindi, ma sì, cioè, sì, è proprio nell'individualità dei singoli errori dove il gioco passa per tre giocatori. Guarda, allora, sì. Banalmente a me sembra che il Milan abbia un buon attacco. Non bisogna dimenticarsi che ci sono due giocatori come Menes e Niang fuori, quindi ha un attacco con delle soluzioni secondo me di alto livello, forse anzi addirittura con un eccesso di soluzioni, perché già adesso Bacca, Luis Adriano, Balotelli siamo lì a chiederci chi debba rimanere fuori, se stanno bene tutti. Il centrocampo ha gli evidenti limiti di personalità di cui parlava lo zio, con tutto rispetto per Montolivo, ma mi sembra che il giocatore di maggiore personalità in quella squadra lì a centrocampo sia Bonaventura. Montolivo è un giocatore tecnico che in alcune circostanze riesce a prendere per mano la squadra, è successo per esempio a Udine soprattutto nel primo tempo, che in altre circostanze invece si nasconde. Ma anche Bonaventura non è un leader, cioè non è un trascinatore, però secondo me sta comunque tenendo alto, sai, tante volte essere un leader significa essere quello che fa la figura meno peggio degli altri, no? Cioè comunque sta mantenendo dei livelli di dignità secondo me superiori rispetto al resto della squadra. Dietro ci sono dei problemi enormi perché Romagnoli, che certamente è un prospetto molto importante, non è pronto. Si è capito che non è un difensore pronto. Ecco, se avessi preso Benatia, se avessi preso uno che ti dà solo Bonucci, Bonucci o Barzagli o Benatia vicino a Romagnoli, vedi, ecco, vedi anche Romagnoli. Però tu Romagnoli l'hai pagato per essere il leader della difesa, non ma per essere per uno che c'ha bisogno di uno bravo vicino. Ma infatti è un investimento in prospettiva, solo che l'hai pagato tanto. Anche Bertolacci sicuramente non è quello che si è visto fino a questo momento. Cioè, secondo me ci sono tutta una serie di attenuanti anche che non devono diventare alibi per questa squadra, che migliorerà, secondo me migliorerà, anche perché come si scherzava ieri peggiorare è difficile, però il punto sulla poca personalità mi sembra un elemento vero. E la difesa, ragazzi, la difesa è una in attesa, cioè veramente bisogna aspettare Mexes come il messia, sì. Mexes, che è uno, io mi ricordo mi ero beccato pure qualche insulto perché quando pare Berlusconi l'aveva difeso, ho deciso di non venderlo, sì. Ho detto che mi sembrava una scelta oculata, perché Mexes è uno comunque dei pochi con le palle, aveva detto Berlusconi, quindi me lo tengo, ecco, anche contro il padre di Mihajlovic, proprio questo linguaggio, sì, esattamente, parole, tra virgolette, mi sembra francamente inopportuno, non voglio rubare il lavoro a Andro Mercu, però insomma io sono d'accordo in questo con Berlusconi, cioè penso che Mexes sia un giocatore che comunque ti riesce a dare magari in maniera intermittente, magari con degli sbalzi d'umore inaccettabili, non per una grandissima squadra come nell'ambizione vuole essere il Milan, però è uno che insomma sinceramente un po' di garra, sì, te la mette, ecco. Non ha paura quando deve confrontarsi con San Siro. Resta il fatto che il Milan è stato accusato per molti anni di fare una politica di anziani senatori strapagati a parametro zero. Adesso la sensazione è che stia provando a costruirsi, sì, quanto meno il futuro. Non funziona bene, però quante volte Mihajlovic, forse eccedendo, ha schierato una linea di difensiva di ventenni, Pierluigi. No, ma sicuramente, De Sciglio e Calabria e Rodrigo Eli e Romagnoli sono quattro ragazzini, non dimentichiamo questo. Assolutamente, e non è sbagliato secondo me quel ragionamento su Romagnoli, che se Romagnoli avesse probabilmente vicino un giocatore un pochino più esperto, ma già per esempio Mexes, magari vedremo cose diverse, insomma. Comunque è una squadra in divenire, un po' migliorerà. Certo, per ora il valore aggiunto di Mihajlovic non c'è, ma lo sa anche lui, eh. Lo sì, sa anche ma non lui. Si è mica nascosto, ma assolutamente non si è nascosto, ha detto la maggior parte delle colpe sono mie, ma questo è evidente, è quasi una banalità. Raffaele Treviso. Ah sì, pronto, scusate. Pronto, prova, no. Eccoci. Di che contrada sei, Raffaele? Sono tifoso del Napoli, anche se però volevo spezzare una lancia nei confronti del Milan. No, però scusa, questa cosa va un attimo capita. Tu sei Veneto Doc, come il Prosecco? No, non sono Veneto Doc, sono napoletano, ma anzi sono nato a Capri, però vivo da sempre nel Veneto. Infatti si sente un accento. L'accento non è come quello di De Luca, No. Vabbè, comunque, molto bene. Quindi, No. Come vabbè, sono considerati i napoletani a Treviso, mediamente? Non ho capito. Scusa. Come sono considerati i napoletani a Treviso, mediamente? Domanda sociologica. Bravissimi, veramente persone estremamente laboriose, persone estremamente, piacevoli da ascoltare. Perfetto. Usiamo okay. questo termine. Ok, no, comunque io volevo dire solamente una cosa. Io ho visto, per forza di cose sono a casa perché sono stato operato in un ginocchio e da 2 mesi mi guardo una marea di partite. Ho avuto modo praticamente di vedere il Milan in più di un'occasione, praticamente forse dall'inizio del campionato, e ti posso dire che onestamente non è che abbia visto un Milan così negativo. Più che altro la cosa che ho notato, una cosa che è stata detta, ridetta, trita, riferita anche in questa trasmissione qua, in realtà manca la mentalità. Secondo me proprio c'è una rendevolezza. Ho visto contro il Napoli, per carità, ho gioito perché il Napoli ha vinto, però voglio dire che onestamente era davvero rabbrividente vedere una partita di questo genere. Dopo l'1-0 il Milan è scomparso letteralmente. Penso che se avessero buttato dentro la primavera probabilmente avrebbe avuto un comportamento sicuramente diverso. Questa è la cosa veramente che mi dispiace anche in un certo senso. Fa parte di tutti i discorsi che stiamo facendo. Sì. Se è una squadra in parte giovane, giocare a San Siro quando sei in crisi è un problema. Esatto, ci sono giocatori di personalità e fai la somma di tutte queste cose. Io penso sinceramente che nella partita dell'altro giorno ci sia stato anche proprio questo elemento. Ogni tanto succede, no? Che si assista a delle vere e proprie umiliazioni, perché è una grande partita, quindi anche il Napoli secondo me ha avuto una voglia di continuare a giocare che forse su un campo di provincia non avrebbe avuto, si sarebbe accontentata del risultato, lo sarebbe portato a casa senza stare, e invece si è resa conto che stava succedendo qualcosa di storico per il Napoli, per i tifosi del Napoli, e che insomma era una notte da giocare fino al 90esimo e anche di più, cioè, infierendo. Il Milan si è trovato nella situazione, chiaramente il Milan non è una squadra nata con l'atteggiamento della provinciale, che se va in difficoltà riesce anche magari a intimidire l'avversario, riesce a fare il falletto, a far capire ragazzi finiamola qua perché non perdiamo ma non svacchiamo, come si dice a Roma. Quindi questo succede ogni tanto, no? Nelle partite fra squadre sulla carta dello stesso livello, dove poi invece la differenza in campo è tantissima. Insomma, la Roma l'anno scorso ha perso col Bayern in quel modo, così, perché comunque ha avuto un atteggiamento da squadra che se l'è giocata alla pari. Se l'avesse giocata la provinciale sul 2-0 si metteva molto più guardinga e si teneva lo 0-2, no? E anche un po' di mind game su questo, no? Mandi dei segnali di fumo agli avversari. Allora fermiamoci un attimo per il traffico. C'è già Filippo Maria Ricci. Ah, però. Poi è il signor Filippo. Poi sentiamo, no? Che cosa ha detto quando rientriamo De Laurentiis a proposito di Rafa Benitez. Tra poco seguiremo tutto. Prima però spot per noi. Tutti convocati. Convocati. Io mi ricordo che Benitez ogni volta mi diceva: Aurelio, mi hai fatto fare il vestito su misura, ma io non riesco a muovere le braccia, quando devo chiamare qualcuno mi tira la manica, non ce la faccio più sotto l'ascella. E a me dicevo: povero Cristo, c'ha ragione. Ha visto che a Madrid l'hanno messo subito a dieta, sudando col vestito. A Madrid l'hanno messo subito a dieta appena arrivato, insomma. Si è portato poi il vestito del Napoli. Sono secondi, non sono nemmeno primi, con quel fuoco di sbarramento che hanno sono ancora secondi. Io quel secondo posto lo conosco, ci sono stato anch'io. Ha ragione De Laurentiis. Filippo ha ragione? Bueno! Sì che ha ragione, sono ancora secondi. Come eravamo noi, sempre lì, secondi, terzi e... Bellissimo, bellissimo. Devo anche dire, hanno pareggiato le ultime due partite, hanno fatto solo un gol. Doveva chiamarmi, glielo suggerivo. Sì, no, infatti è sulla graticola Rafa, che ovviamente si mette parecchia roba sulla graticola, visto che il vestito gli sta stretto. E l'avranno pure messa dietro, ma poveretto, l'abbiamo ma visto. Ma è ringrassato o no? Lo sfilatino in panchina. Lo sfilatino in panchina era tanta roba, sì, sì, sì. No, insomma, è complicato. La Casablanca è decisamente complicata. E adesso, siccome poi appunto ha fatto due pareggi di fila, fa questi cambi molto italiani, potremmo dire. Sì. No? Toglie Benzema per mettere Kovacic. Toglie Benzema che ha segnato. Mette Kovacic esterno. A sinistra, mette Kovacic esterno a sinistra per riequilibrare la squadra. E poi c'è Benzema che dice: no, ma come? Perché mi togli? Ha messo uno per difendere il risultato. Quindi se l'hai prese anche da Benzema. La parola chiave è Amarrateghi. Praticamente il difensivista, in questa parola che è un misto tra spagnolo e basco. E basco, sì. E ieri era ovunque. Tutti che gli dicono che è un Amarrateghi. E lui ieri sera è andato a fatto una doppia intervista, questa cosa surreale, per cui le ha registrate, per cui ieri sera se tu accendevi la radio qua in Spagna, tra mezzanotte e mezza e l'una e mezza sentivi Benitez in due radio diverse. In Mondovisione. Difendersi in ogni modo, a reti unificate. Come si difende lui, come si difende il suo Madrid, però secondo me con scarso successo, nel senso che lo sa anche lui qua c'è cresciuto, fare certi cambi, certe cose... Non si può fare. Intanto lo sai, no? Cioè, fare un cambio come quello può costarti il posto. Sì, anche se devo dirti la verità. Carlo lo sapeva. A Napoli non cambiava mai, forse qualche cambio a Napoli di modulo poteva provare a farlo, però insomma, vabbè. No, Ancelotti lo sapeva e infatti faceva sempre giocare tutti Mamma Santissima. E l'anno scorso alla fine gli sono scoppiati e non difendeva più nessuno e gli è andata via la Liga. E finché andavano bene, finché soprattutto c'era Modric, no, fece le 24 vittorie consecutive, grande calcio e via dicendo. E Benitez, che è uno pratico, secondo me ha anche ragione, sta provando a cercare delle alternative, fa giocare, no, il tagliaboschi, il taglialegna Casemiro, che l'altro giorno al Calderone è stato uno dei migliori, dopo il portiere, cioè che tu certo, vada al Calderone. No, il migliore sia il portiere e il secondo quello che mena. È chiaro che al tifoso del Real Madrid pare un sacrilegio. Ma aprile potrebbe esserci Sarri libero, se ha visto che De Laurentiis ha spiegato questa formula per cui il contratto è di un anno, però lui può scegliere ad aprile se confermarlo oppure no. Insomma, potrebbe esserci Sarri libero, arriva a Madrid con la tuta e la stecca delle sigle. Il discorso è che qui in realtà è complicatissimo, perché ieri sera giustamente gli dicevano: ma adesso che, perché finora gli è andata anche bene, perché Bale e James erano infortunati, adesso tornano e ci risiamo, come fai a giocare, a difenderti, a trovare l'equilibrio se devono giocare Bale, Benzema, Ronaldo e James? Certo. E poi c'hai Kroos e Modric, qualcuno deve star fuori o comunque qualcosa devi cambiare, siamo alle solite, adesso vedremo come se la cava. L'unica cosa che io posso dire è che con un Barcellona in chiarissima difficoltà, un Atletico così un po' altalenante, il Real Madrid se non vince questa Liga non la vince più, insomma, adesso giocando bene, giocando male, però insomma, in questo ha ragione De Laurentiis, sono ancora secondi, sì. Non può essere, insomma, ecco. La superiorità è enorme, con tutto che anche il Madrid ha avuto i suoi infortuni, però adesso in Barcellona senza Messi per due mesi, sì, ma sta tutto lì, volevo chiederti questo, sono tutti lì, non sono pochi, l'assenza di Messi per due mesi è un sacco di roba, ma sono lì i problemi del Barcellona o c'è qualcos'altro? Perché sta andando troppo, è troppo brutto per essere vero. Vabbè, no, lì è tanto, e poi non c'è panchina, lì veramente non c'è, lì c'è poco da... Cioè, tu in panchina c'hai Gubau e Camara o Sandro e Munir. Cioè, il problema vero, sai qual è? Se vogliamo trovare un'altra chiave di lettura, è che questa cantera tanto decantata non funziona più tanto bene, perché dai tempi di Pedro e Busquets non è che poi sia uscito più un altro fenomeno, o comunque uno capace di poter giocare in questo Barcellona, che è il Barcellona del triplet. Non ci sono ricambi, hanno provato a cambiare. cioè, tutto nasce perché hanno cambiato il direttore della cantera, secondo me, e lì, da lì non sono più usciti dei fenomeni veri. Poi non ci credono tanto, perché quelli che ci sono buoni se ne sono andati via, come adesso c'è Alilovic o Denis Suarez o De Europeo. Ci sono anche delle generazioni, no? Come capita qui da noi, anche lì ci saranno delle generazioni di buoni giocatori. Non è che in ogni generazione ci sono tre fenomeni, quanto possano lavorare meravigliosamente. Sì, non puoi avere una squadra con Piqué, Fabregas e Messi, insomma, tutti gli anni. No, perché loro avevano questa, cioè tutto, c'è stata una generazione, sono usciti questi tre, insomma, che non sono male. E, per cui no, c'è un problema di ricambi. E poi c'è Luis Enrique, se vogliamo aprire il capitolo di Luis Enrique, lo vedo parecchio nervoso, e questo ovviamente. Senti, ma ipotesi alternative, però al Real e Barça non mi sembra che ci siano nelle 38 partite in questa stagione, no? No, però insomma, io ti dico, in questo momento il Real Madrid teoricamente doveva essere in fuga, certo. Il Barcellona si difende perché appunto c'ha i giocatori che c'ha, che sono buoni, ma sono pochi, devono giocare continuamente. Adesso c'è la pausa, tutti se ne vanno con il nazionale, insomma, però è il Madrid, secondo me, che avrebbe dovuto già essere in testa alla classifica con un certo vantaggio. Insomma, vincendo il derby, l'Atletico andava a meno 5. Non dico che l'avevi fatto fuori, ma quasi. Il Barcellona lo scavalcavi, invece sei lì, pari punti col Barcellona, c'è davanti il Villarreal, così, insomma, è chiaro che la gente mormora, se poi soprattutto fai certi cambi e mostri una certa attitudine. Certo, e poi c'è addirittura il fuoco amico di Marca, che oggi leggevo il titolone, primavera grana, primo vero problema, con una faccia di... Quindi c'è anche il fuoco amico... Si capisce che per Rafa, che Gianni era in provera, sì, prendete pure per il culo Benitez, intanto lui ha vinto una Champions, rosicate. No, non rosichiamo, guardiamo i risultati. Filippo sa benissimo, dobbiamo chiudere, dice Luca. Io ho un bel rapporto con Benitez, simpatico, però voglio dire, il bel rapporto non impedisce di valutare l'esistente. L'esistente è che a Napoli non ha mai cambiato modulo, ha giocato sempre nello stesso modo. Il primo anno è stato buono, il secondo anno è stato catastrofico, perché il Napoli, con la squadra che ha, che non si è arrivato fra le prime 3 in un campionato come quello scorso, con la Roma che ha faticato così tanto, è stato un fallimento. È arrivato Sarri, tre mosse. Ciao Filippo. Ciao. Ci troviamo subito dopo il GR. Saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con te, no, Alessandro, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Si ricomincia. Convocati dall'Italia, da Milano, dalla crisi del Milan al Napoli, alla Fiorentina, alla Juventus, all'Inter, fino alla Spagna e a Benitez e le sue grane con il Real Madrid. Tra poco andiamo anche in Inghilterra. Oggi, per onorare la presenza in studio di Pierluigi Pardo, giro d'Europa. C'è stato anche dibattito su come ci si veste stasera per andare a vedere Milano-Boston Celtics. C'è stato pensato, metto la camicia alle Celtics e tu mi hai detto sì, però mettiti la camicia sotto. L'ipotesi era senza, magari ti pantaloncini di andare con la discreta panza. Ma aspetta, adesso poi lo chiediamo anche anche a Matteo Soragna. Sì. Lo chiediamo a lui. In caso uno, io 5-6 minuti me li faccio. Tagliamo la testa al topo. Alessandro da Firenze. Pronto, buonasera, grazie per avermi convocato. Come va? Bene, Bene, bene, benissimo. Volevo fare una domanda, prima la provocazione. Più meno parlate di noi e meglio è per noi, perché più meno parlate più si va avanti noi. Ma siete sicuri che siamo proprio più scarsi degli altri? Ma se per caso domenica si dovesse battere il Napoli, chissà se diventa supercampioni. Si è fatto fuori il Milan, si è fatto fuori l'Inter, e nonostante tutto citate ancora come l'ottava nona squadra. Ma chi di... Ma chi? Poi faccio rispondere, mi scusi. Ma sulla carta i nostri uomini sono molto peggio degli altri? Grazie, io vi ringrazio. Stai lì. Ma scusa, chi è che dice che la Fiorentina è ottava o nona? Perché ora, ad esempio, il Napoli ha fatto una bella partita con il Milan, per l'amor del cielo. Sì. Sentivo prima i vostri discorsi, la squadra che può vincere il campionato, la più forte di qua e di là. E voglio dire, noi si è fatto fuori anche l'Inter. Mi sembra che due mesi fa l'Inter doveva asfaltare il campionato battendo noi. Ma amico mio, come direbbe Parenzo, ma nessuno. Io guarda, ti giuro, questa cosa. Siccome si ripete spesso questa cosa qui di sentir dire. Allora, che si parli della Fiorentina, meno che delle tre squadre del Nord, e poi del Napoli e. Poi c'è la Roma, sui giornali nazionali e sulle televisioni nazionali e sulle radio nazionali, l'abbiamo detto mille volte perché noi siamo onesti intellettualmente, ed è chiaro che se tu fai un programma che parla a 58 milioni di italiani, i bacini di utenza un pochino contano, il che però non vuol dire che tu parli sempre bene del Milan. Del Milan lo stiamo sfondando in questo momento, però se ne parla pure quando va male, cioè se l'Inter o il Milan o la Juve rischiano di andare in Serie B, se ne parla, non è che non se ne parla. Ma anche perché è una notizia. Un discorso di spazi. Quanto alla Fiorentina, non ti nascondo che ho cercato ieri di avere un ospite della Fiorentina, verranno presto e li aspettiamo a braccia aperte, perché poi non è che è così semplice avere, no? Cioè non è che uno chiama, ieri abbiamo fatto questo colpo con De Laurentiis e giustamente siamo felici di averlo fatto, ma non è che uno chiama tutte le società d'Italia e ti danno, ah sì, chi vuoi oggi? Vuoi Bernardeschi? Ti mando, non lo so, Gonzalo, non è così. Per la Fiorentina e per tutte le altre. Quanto alla valutazione tecnica, io Fiorentina, ribadisco, è una delle cose più belle del campionato. Se mi chiedi, secondo me, chi vince lo scudetto, io oggi ti dico il Napoli. Penso che la Fiorentina stia facendo un lavoro eccezionale, indiscutibile. Però... ieri sera a Tiki-Taka c'era Pupo, l'abbiamo celebrata per un intero blocco di trasmissione. Sì, però guarda, c'è fatto il rischio, come sottolineava ieri Graziani, adesso a Firenze ci sia questo eccesso di entusiasmo che potrebbe c'è a Firenze, essere... c'è a Napoli, c'è a Roma, c'è ovunque, il rischio c'è ovunque. Senti, abbiamo in linea un tuo collega. Io sono felicissimo che la Fiorentina, e l'ho detto anche ieri, mi pare proprio qui in radio, sono felicissimo che in questo momento ci siano delle città che non sempre festeggiano, che quasi mai vincono il campionato, che si godono la gioia di imprese eroiche con l'idea di un confronto diretto. E capisco dopo perfettamente la voglia dei fiorentini di godersi questo momento fino all'ultimo e fino in fondo. Quindi questo proprio. Chi c'è? Paolo Di Canio? Sì, tuo collega. Paolo Di Canio. Così era. Lascialo cantare, Pardo. Era così il coro? How are you? Oh, I'm very well, but volevo chiederti, cantavano più forte Paolo Di Cani i tifosi di Hammers, di West Ham, o i tifosi di Sheffield, o i tifosi di Celtic? Two different versions, due maniere diverse di cantare, no, a parte gli scherzi, i tifosi, gli Hammers sono nel cuore, così, tanta roba. Come io sono nel loro cuore, per cui lì è la mia casa, è una cosa diversa. Ma il coro qual era? Oltre a questo Paolo Di Canio, la donna immobile, insomma, Verdi Opera è stata una grande cosa, certo. Grande omaggio che mi hanno reso quando sono arrivato, insomma. La cosa che rimane ancora bellissima. Tanto a casa tua adesso è House of Football. Ogni lunedì sera, come parlo, conduttore televisivo. Siete esattamente qui. No, guarda, allora qui, se no qui qualcuno. A me manca non poterlo invitare perché non può venire. Sapete, no? Perché non sono un conduttore, sono un padrone di casa, sono allenatore prestato a questo divertimento che è raccontare calcio. Dentro casa, naturalmente, stando attenti a certi termini, perché quando sono dentro casa mia, in taverna, con gli amici, vediamo le partite, escono delle parole non ripetibili a quell'orario. Alle 20. Perciò in questo momento mi diverto e mi fa allenare, perché comunque facciamo molta disamina tecnico-tattica, vedo moltissime partite, in attesa di fare quello che mi piace fare, insomma, stare nel fuoco. Ovvio. È una cosa che mi sta prendendo molto, devo dire, è una cosa piacevole. Tanto ieri sera, aspetta, c'è stato Capello che ha detto due cose interessanti. Una sul Liverpool e una su José Mourinho, sentiamolo. È il sistema di gioco di Klopp che dovranno adeguarsi rapidamente i giocatori. Sistema di gioco che comporta pressing, velocità e verticalizzazione. Quindi è una scommessa. Io avrei scelto Klopp proprio perché lui riesce a fare qualche cosa di diverso rispetto agli altri allenatori, riesce a creare una squadra. Va a comprare i giocatori non perché sono giovani, ma perché devo fare una squadra, perché funziona. Io sono un ammiratore di Mourinho, l'ho sempre difeso, ho sempre detto che è un grandissimo allenatore, in assoluto il migliore, perché vincere in tutti i posti dove è andato non è facile, e tu che hai girato anche tu sai che è difficoltoso capire la mentalità e cambiarla. Lui però è uno, così mi dicono a Madrid, ecco ti dico da dove, la voce da dove arriva, che dopo un anno e mezzo, due anni brucia i giocatori. Probabilmente in questo momento sta succedendo questo, i giocatori non riescono più a dargli quello che lui vorrebbe. Insomma, che grande Capello, che grande, posso dire, che grande opinionista è. Perché Capello, la cosa fantastica di Capello è che quando lui fa l'allenatore, quando fa l'opinionista, cioè non fa 0-0 pensando alle conseguenze di quello che dice. Che, quindi, proprio da questo punto di vista, secondo me è un fenomeno assoluto. E mi ricordo della sua parentesi, forse in Rai, a un certo punto in Champions League, era anche uno straordinario compagno di trasferte. Cioè, sembrava veramente era uno ruolo, di noi, ma è una cosa meravigliosa. E ha ragione su Mourinho. Oggigiorno è cosa non facile da trovare, perché lo sappiamo che soprattutto in Italia siamo un po' bigotti, nel senso che se un allenatore parla a cuore aperto, anche criticando magari situazionalmente un avvenimento di un giocatore perché fa un errore, magari un giocatore importante, c'è sempre l'estio, si ha paura di dire ha fatto un errore grave. Certo. E invece secondo me si fa un favore a quel giocatore se si dice questo. Perché? Perché proprio perché è un campione, mettiamo Buffon, no, noi riteniamo il portiere più forte negli ultimi 30 anni, no? Se in finale fa quella parata su Messi, che non è un tiro trascendentale, lascia la palla lì, non si deve vergognare qualcuno di dire è un errore grave per lui, proprio perché è un fenomeno, non è da lui lasciare la palla lì. Un tiro non trascendentale deve essere spinto lateralmente, perciò tecnica del portiere sbagliata, e sai, Suarez poi si addormenta e Suarez fa il gol. Sai, in una finale questo costa tanto. E questo non vuol dire che tu cancelli la carriera di Buffon, però si ha paura di dire questa cosa in Italia, che è folle secondo me. E non, questa è una critica costruttiva, è per far capire proprio la grandezza di quel giocatore. Però in Italia si ha paura magari di dire situazionalmente che questa cosa è sbagliata. Paolo, se tu chiedi, fai una domanda a un allenatore su una squadra che non è la sua, la prima risposta che ti danno 100 volte su 100 è: io non guardo in casa degli altri. Tu sai benissimo che è così, no? Bravo. Io capisco se sei parte in causa, cioè se tu stai allenando e ti chiedono, e già c'hai quei problemi, e ti dicono: ah, quella squadra sta facendo così, guarda, io sto vedendo, non è posso fare una disamina in un'altra squadra, già c'ho problemi con la mia, lo capisco. Ma allenatori che non sono in questo momento occupati hanno veramente il timore. Guarda, io ti dico, sto notando, perché poi dietro le quinte io parlo con gli allenatori, i colleghi, ci incontriamo, no, sono persone veramente tanto proprio aperti, fantastici, così. Poi davanti alla telecamera assumono un atteggiamento per cui se mettono un po' di gogliardia hanno paura che da casa i dirigenti che potrebbero chiamarli dicono: ah, però non è serio. Ma cosa è diventato allenatore? Cioè, voglio dire, vieni, cioè, ci sono tanti allenatori che hanno fatto prima i giocatori, che hanno il titolo di terza media come il sottoscritto. Se quello lì non è che poi davanti alla televisione diventa... Ma questa, Paolo, questa è una è una divisione quasi filosofica, secondo me, fra ma sostan- una cagata, ma certo che è una cagata, certo che è una cagata. Però riguarda tanti aspetti della vita, secondo me. Per cui se sei appunto un po' cazzaro, no? Ti piace la battuta, c'è sempre qualcuno che ha paura. Non è gravare, capito? Certo. Che ti dico, non è ogni momento della trasmissione. Ma se anche c'è una battuta, c'è un attimo di gogliardia su un avvenimento, un accadimento che ricordi e tutto, poi però ci sono 20 minuti di disamina tecnico-tattica, la tua personalità esce, la tua qualità esce. Certamente il fatto di poi far uscire ciò che sei mette un po' di timore, perché solo in Italia accade che i dirigenti che hanno il pieno potere chiamano l'allenatore, che diventa loro suddito, per cui, e do almeno 9 casi su 10 in Italia è questo, devi dire che i giocatori che ti porto io, perché non hanno potere decisionale gli allenatori, già che hanno lavoro devono essere contenti in Italia, sì, assurda questa cosa, e devi dire grazie, e devi dire che l'hai preso tu, l'hai voluto tu, e poi dopo guarda questo giocatore lo devi far giocare. E allora tutta questa qualità di cui parlate, che in Italia ci sono allenatori bravi, che hanno grande personalità, competenza, difficilmente esplode. Uno, due casi, Sarri per meritocrazia arriva a Napoli, all'inizio tutti disastro, gli si dà un po' di tempo, ecco lì che esce la qualità, comunque stravolge un modo di pensare, vedremo se durerà, però si vede che la squadra adesso ha un corpo, ha un'anima e una filosofia ben precisa. Cioè, però è un caso proprio perché gli altri sono inibiti, questo lo accettano loro naturalmente, non possono tirare tutta la loro personalità a rischio di sbagliare, ma di fare anche cose belle proprio perché vengono da una scuola comunque ottima, quella italiana. Assolutamente, ma Mourinho, tornando al discorso di Capello, ha ragione, ragione Capello su quello, sul fatto che spreme i giocatori? Guarda, io prima dice Capello ieri, io non ne parlavo proprio negli ultimi mesi quando faceva delle interviste e così, io ho fatto una disamina mia naturalmente, è evidente che quello che ha fatto lo scorso anno con Hazard, Willian e Oscar è stato uno stravolgimento fenomenale, nel senso che questi si divertivano ma non facevano risultato perché giocavano solo con la palla, solo palla al piede. E sai, tre giocatori più la punta che non tornano, sono te lo potevi permettere un pochino perché magari hai, hai una difesa ancora fresca e giovane e ad alto livello come Terry e Cahill, centrali di difesa, Ivanovic uno dei più forti terzini al mondo, più robusti, più aggressivi, ok. Però dopo un anno non hanno ricaricato queste batterie, oppure non è riuscito neanche Mourinho a farle ricaricare, proprio perché secondo me per loro è un compito gravoso al massimo. Cioè un anno ok, ottengo risultati, li sto ottenendo, credo a questa filosofia, cavolo do qualcosa in più in fase di un possesso, gioco qualche palla in meno ma recupero palloni, divento compatto come linea insieme agli altri reparti e tiro fuori i risultati. Non grande spettacolo ma squadra granitica. L'anno dopo poi è difficile per chi ha una mentalità gioiosa, i due brasiliani ancora più degli altri, Oscar e Willian. Mettiamoci che un ciclo è finito, cioè Terry e soprattutto, ma anche Cahill sono veramente spremuti, venivano da due anni di non vittoria. Ritorna il loro padre putativo, calcistico, che li ha resi vincenti, no? Grandi, riaccendono quella fiammella, lo fanno diventare un bel fuoco ancora una volta, poi però non ce l'hanno più. Ivanovic sembra, cioè voglio dire, uno stordito, sì, sì. Era sì, un animale, era, sì, era sì. Quel ciclo, il ciclo è finito, quel ciclo è finito, quel ciclo esatto. È finito, adesso da capire esatto. Se a che punto siamo, a che punto sì, siamo Mourinho. È una cosa assurda vedere, non ho, io a memoria mia, da calciatore e da allenatore, non ricordo un'involuzione così rapida di una squadra che vince in modo granitico un campionato e dopo tre mesi, in tre mesi, cioè è una squadra da retrocessione per come esprime il suo calcio. Con gli stessi giocatori, non è la Juve che ha cambiato tre giocatori importantissimi, linea dorsale fondamentale, uh-huh. E tu dici, devono inserirsi e devono capire, insomma, dobbiamo rinnovare e vedere un po'. Questa è la stessa squadra con Pedro che è arrivato alla fine, addirittura con un piccolo rinforzo che è arrivato alla fine. E gioca tutto al contrario di quello che faceva lo scorso anno, poco dinamismo, poca interpretazione, poca personalità, paura, si corre solo all'indietro e si corre male con gli stessi giocatori, ma guardate che è una cosa veramente da studiare, eh? Questa è una cosa da studiare perché non è mai accaduto nel calcio secondo me. Grazie Paolo, ciao, a presto, un abbraccio e buona giornata. Ciao, ciao Paolo, ciao. Di Canio, fiume in piena, eh? Beh, il signor De Canio. A lui ho fatto la mia prima intervista proprio a Stream. Sì. E non riusciva a tagliarla, un po' perché non era, sai, c'è cioè, il montaggio, non riusciva a tagliare questa intervista, un ancora. Po' perché non ero capace. La prima, giocava ancora in Inghilterra? Giocava sì, però gli ho fatto a Terni, si giocava secondo me al West Ham. E mi regalò, vabbè, una maglia, momenti straordinari, però ci fu, non si riusciva a tagliare, ma poi ho capito a distanza di anni che il problema non era tanto mio, è proprio che non si può tagliare. Non si può tagliare di cane, è un fiume in piena. Silvia, Firenze. Eccola qui, un'altra sì, signora che adesso ci tira le orecchie. Presenti. No, non tiro orecchie a nessuno, però dico una cosa. Allora, la Fiorentina non è mai una leader, e questo è ora perché in questo momento. E poi io non penso più che lo scudetto, perché secondo me, per esempio, la Juve purtroppo non è morta, perché lei rinasce sempre. A parte questo, godiamoci il momento, va bene? Il problema è, cioè il problema, la cosa che mi dispiace è che vince una partita l'Inter o il Milan, una magari su tre o quattro che perdono, sembra siano fenomeni. Ne vince 6-7 la Fiorentina, non parla mai nessuno. Vabbè, se questo vuol dire portare bene, meglio così, non parlatene più. Ma quello mi dispiace è che la RAI che è di tutti, non parla mai, quasi mai, della Fiorentina. Ma scusi, solo ieri Inter, sera, la RAI, Milan, ieri sera Juve, la RAI aveva... Roma e Lazio. E ora va di moda al Napoli. Ma guardi, adesso, ieri sera la Rai aveva nel processo, che è un programma che va in onda alle 23 a mezzanotte, e aveva Pradè. Adesso io non so quanto, francamente non l'ho visto perché stavo facendo il mio. Noi abbiamo avuto Pupo perché abbiamo chiesto alla Fiorentina, ci dà qualcuno, ci daranno presto qualcun altro sicuramente, li aspettiamo a braccia aperte. C'era un'idea con Pasqual, ma poi doveva rimanere. Io francamente non penso che sia così, non penso che sia così, lo dico anche a nome di colleghi teoricamente concorrenti, non penso che sia così. Detto questo, al di là di quel discorso che lei fa, che abbiamo fatto prima, che noi diciamo a carte scoperte, cioè è ovvio che in assoluto se tu prendi la Gazzetta, se prendi il Corriere della Sera, la Repubblica, i giornali nazionali, le squadre, il tempo e lo spazio che viene dedicato, e quindi anche le televisioni nazionali, è proporzionale ai bacini d'utenza mediamente, quindi è chiaro che se ne parli un po' l'argomento meno oggi, l'argomento però oggi in questa settimana stiamo parlando di Fiorentina tantissimo, l'abbiamo continueremo fatto a farlo, è un piacere parlare di Fiorentina. Firenze gioca in questo momento un calcio straordinario, l'abbiamo detto. Poi io penso che il Napoli abbia qualcosa in più dal punto di vista delle 38 partite, ma è una mia idea, magari anche sbagliata. Senti, abbiamo Matteo Soragna, così facciamo con Soragna. Ciao, come vengo stasera? Con la carottiera o sono ridicolo? Guarda questo problema, stasera va a vedere Milano-Boston vuole mettere la carottiera dei Celtics, fa bene o no? Me l'hanno regalata. Diciamo che gli appassionati, quelli un po' più dell'ambiente, non lo farebbero mai, però i buoni tifosi lo fanno. No, allora non lo faccio, non lo faccio perché non vorrei essere guardato male. La do a mia moglie, praticamente lei arriva tipo vestito abito lungo. Da sera. Matteo, come hai visto le prime battute di campionato? Bene, dai, è un campionato che ovviamente per adesso ci sono dei risultati un po' particolari, perché le squadre tante ovviamente sono nuove e sono in fase di costruzione e devono capire chi sono veramente, però ci sono poi risultati anche come quello di ieri sera di Reggio Emilia, che dimostra che è una squadra super collaudata e compatta, che è andata a vincere di grandissima autorità a Torino. Sì, Reggio Emilia che peraltro si è portata a casa il primo trofeo stagionale, cioè la Supercoppa Italiana, che è vice campione d'Italia, ha portato Sassari alla settima partita nella serie più bella che io mi ricordi, anche Paro diventava matto per quella serie di finale scudetto. Adesso si tratta di capire cosa può valere la eterna favorita Milano, perché questo giocherà stasera con i Celtics in questa kermesse. Peccato che non sia venuta una squadra con qualche super giocatore in più. Celtics in fase di ricostruzione. Larry Bird sarà in tribuna con la canottiera. No, si tratta di capire quanto può valere Milano, che è appunto l'eterna favorita, la più ricca, quella che spende di più, quella che fallisce anche in maniera più rumorosa certe volte. E poi la gente si aspetta molto ovviamente da Milano, quest'anno ha fatto una squadra in controtendenza con quelle che sono state le scelte degli altri anni, ha fatto una squadra molto molto più quadrata, probabilmente con meno talento, però dovrebbe essere più organizzata, ha cambiato veramente tantissimo, quindi anche in questo caso bisogna dargli un po' di tempo. Ma possibile outsider? È difficile, perché comunque le squadre che si sono giocate l'anno scorso il campionato, cioè Milano, Sassari, Reggio Emilia e probabilmente Venezia, sono quelle che se lo giocheranno, credo, anche quest'anno. Quindi queste, non si esce di lì. Vai a vedere i Celtics stasera? Non vado a vederli perché ho allenamento e quindi... Facciamo noi Lakers e Golden State. Lakers, Golden State. Allora poi chiami Pardo e ti racconta come è andata la partita. Poi parliamo un po' anche di Lega 2 ogni tanto, eh? Sì, perché no, ma sai perché? Perché è un campionato clamoroso quest'anno. Sì. Dal punto di vista ovviamente di piazze, di città. No, poi c'è Coldebella che ha sempre delle idee originali, interessanti per rivitalizzare questa ogni anno. Forse per una sola promozione su 32 squadre non è proprio il massimo, no, ecco, diciamo, quello non ci sta. Grazie, no, Teo. Dimmi. Grazie a voi. Ciao. Tra l'altro oggi alle 4 c'è la conferenza stampa di Sky, della presentazione della stagione, perché la copertura è veramente eccezionale, faranno vedere per gli appassionati di pallacanestro veramente di tutto quest'anno. Eh sì, questa è una gran cosa, che il basket sia tornato su Sky con due partite a settimana. Ciao Matteo. Ciao. Ce n'è una anche sulla Rai, se non sbaglio, no? Ce n'è una sulla Rai, hanno spacchettato i diritti. C'è una partita sulla Rai, che è quella della domenica sera, mentre l'anticipo e il posticipo vanno su Sky, quindi due partite da una parte, una dall'altra, e si vede un po' di pallacanestro. Come farai tu questa sera? Bravo. Grazie. Ci sentiamo domani, magari ci vediamo domani. Sì, se vedete una con la canottiera verde con uno grosso vicino. ciao, ciao Pierluigi. Ciao, ciao, ciao. Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Giovanni Melchiori, ciao anche a loro. Ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. È finita! È finita!